Beh, ma mica nevo, non era mica le corriere, le macchine che adesso, che arriva in castello e veniva col treno, mica che da verzevo la porta che ero su con la vacca pascolare, l'era sempre tedesco in generale, che veniva a vedere il castello. E veniva, se era su, che da verzeva, se non era nessuno, l'era chiusa a chiave, aveva la chiave, noi del castello, nel Vudeseami, noi del castello. E batteva con il sasso alla porta, perché la porta era tutta in ferro, né? Si batteva col sasso alla porta e venivo da verso della porta. Se ero fuori in campagna vicino alla porta, e se no mi ero dentro per il castello, non Non ti sentivo sentiva nessuno. neanche.